Casino. Vediamo un po'. Adesso è stabile. Sì, adesso è stabile. Stabile. Lineatore tipo l'autoradio, no? Che quando tu giri la chiave si accende anche la radio, però sta dietro nel connettore, quindi almeno un cavo non va collegato, cioè va collegato direttamente al positivo, che è quello che tiene le radio accese. Così sono fatti questi, che ciò che sono lo stesso della sua famiglia, e così penso che siano fatti quelli lì. Magari il problema sta proprio lì. Non so, non senti a Walter parlare con lui, io ho fatto pulizia, ho messo le scarpe di topi, tutto pulito, ordinato, e poi ce ne siamo andati. Tutto qua, però c'è questo problema che ha verificato lui, capito? Perché abbiamo provato anche a staccare la corrente, poi quando rimandi tensione al contattore tutto funziona, tranne che le radio non si accendono, devi accenderle manualmente. Sono a pulsante, no? C'è il pulsantino, devi tenere premuto, poi si avviene. E ci conferma. Fanno così. C'è poco, magari ti dico, venivano sempre quelle Motorola, ma un po' più vecchiotte, che sono come baracchine, no? Anche se anche i baracchini stanno facendo così, c'hanno l'interruttore, no? Tu giri e la radio si accende, così se manca la corrente e poi arriva si accendono da sole. E invece è un circuito elettronico. Non è così, c'è anche Luca. Avanti Luca, che cambio radio. Buonasera, ciao Luca. Io sono Gianni, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Niente, Gianfranco, siamo andati. pratica un volta stamattina un terraggio, abbiamo fatto tutto, però c'è il problema che quando manca la corrente si accende l'alimentatore, si accende tutto, ma le radio rimangono spente, devi accenderle manualmente, quindi sicuramente ogni volta c'è temporale, manca la luce e rimaniamo senza ponte, no, si dibatte, perché è un problema che abbiamo constatato stamattina. Avanti Gianni. Chi che ti sta chiamando Bicquè, andiamo a fare a 5.25. Paga, ciao Claudio, ciao a tutti gli altri amici, non so chi ci sia, sono entrato adesso. Ben sentiti, avanti. Sì, sì, ciao Gianni, io ripasso su, così sventiamo un po'. Capisci? Riprendi Claudio, poi se passi, siamo lì. Ciao Gianni, riprendi Claudio. Ciao Gianfra, ci sentiamo dopo magari a 5.25. Avanti Gianni. Sì, c'era Luca, Luca chi? Luca Manicomio o Luca Flipper? No, Luca Flipper, forse al telefono. Lui al telefono sì. Non so cosa sta facendo. Da molto ci sei. Cosa? Da molto ci sei. No, eravamo solamente, stavamo facendo le prove. Siamo passati da poco qua. Ho sentito che ci sono dei problemi con il ripetitore. Sì, il nostro, no, non problemi. Siamo andati stamattina con Walter a fare un po' di pulizia dei controlli e abbiamo verificato appunto che R0, quando manca la corrente, non si accendono le radio, anche se sono funzionanti, boh, c'è una funzione che bisogna modificare, capito? Non è che ogni volta manca la corrente bisogna andare lì a accendere la radio, e che cazzo, se vuole accendere in automatico. Eh beh certo, è certo che così, e ci sarà qualche sistema, no? Qualche trimmer, qualche cosa per farle accedere in automatico. Non lo so, sono delle radio che io non conosco. Adesso consulterà a volte il tecnico e vediamo un po' cosa decidono di fare. Non lo so, io sono andato stamattina, abbiamo fatto quello che dovevamo fare perché non funzionava, pensavamo che si fosse bruciata, infatti abbiamo portato l'altro di riserva, invece non è, c'ha niente, è solo un problema di alimentazione, dobbiamo fare qualche modifica, non lo so. Vedano loro, io non sono sociali, quindi per il momento non mi interessa, sono solo andato a far compagnia a Walter. Cappala. E vabbè, ma li usi anche tu i punti, là. Quindi va anche per te, va così. Vabbè, io faccio a titolo di amicizia, i punti li usiamo tutti, non è che è di Walter il ponte. Anche se l'ha comprato lui, ma è a disposizione di tutti, soci e non soci, chiunque può usarlo. No, siccome io sono amico di tutti i miei colleghi radioattori, se c'è da dare una mano va della loro stesso, non è che perché non sono sociale non devo andare a fare compagnia o a dare una mano a sistemare le antenne eccetera, l'ho sempre fatto, non è che assolutamente. Certo che sì, kappa. E vabbè, già si risolverà, dai. Cioè, quando ogni volta che fa temporale, ma l'alimentatore è buono. Sì, c'è un alimentatore da 200 euro, poi. Auto mi tirai a volte. C'è roba buona, tutto l'impianto Motorola, tutta roba seria, non barca i soldi. C'è una funzione, vuol delle funzioni su queste radio che vogliono modificare adesso. Chi li ha piazzate, chi conosce quel tipo di radio, non sono radio come questa, sono radio particolari per il fuoco, capito? Radio che tengono temperatura, tengono umidità, radio stagne della Motorola, quindi adesso chi li ha montate andrà e farà qualche modifica, vedrà un po', boh, io non capisco un cazzo di queste cose. Eh beh, certo, ognuno ha il suo mestiere, non è che sono cose che c'è gente specializzata che le fa, specialmente nei punti, se non lo sai metterci male meglio non metterne. No, perché mi ricordo che Fabrizio li aveva cambiati gli alimentatori, li aveva comprati da poco, quindi aveva comprato anche a me. No, gli accreppati quelli, non ci sono quegli alimentatori. C'è un alimentatore grosso a 50 ampere della Nissei. Io c'ho quello da 50 ampere, sempre di quelli di Claudio, e alimenta 300 watt, non me l'ha mai creppato. Sì, ma cazzo, non vorrei mettere la tensione che c'è lì in quella casetta, l'elettrostatica, le cazzo. posto lì, a Bossia, a 1200 euro, a 1200 metri di altezza. Penso che non c'è temporale lì, non è come se c'è. Sono scariche elettrostatiche, tutto pieno di ripetitori, c'è un rientro di RF, questo ha bruciato le cavità, ha bruciato il ripetitore, fuori ci sono bruciano alimentatori. Vabbè. Sì, beh certo, è lì altura, poi fulmine queste cose qua le guida in pieno, in altura è ancora peggio. 1200 metri, ti sto dicendo, io sono arrivato a maniche corte e in pantaloncini a mezz'asta e mi ho dovuto mettere la felpetta, un freddo gatto allucinante, ma stai scherzando, sì, a 1200 metri di altezza, non sia a 300 metri, è un bel alto, e poi ci sono tutti i ripetitori, tipo più di Monte Oro, e ce ne sarà il doppio, sto pieno di casette, c'è la forestale, c'è la vedetta della forestale, lì fissa 24 ore su 24, capito? È tutto pieno di roba di Stato, quindi se non ti fanno entrare, no? C'è il cancello, non ti fanno entrare se non sei autorizzato. E vabbè, se arrangeranno loro, non so cosa dirti. Luca. Ha fuggito tua. No, ma ho detto, aspetta un attimo, non ho capito se è al telefono, se volano chiamato, non so. Com'è questa radio? Va bene. Stappa. Come gli altri, no? Eia. Poca potenza c'è questa. Questo è 450. La Yaesu però è, no, 450 della Kem, questo è l'effetti 450D. Digitale DSP. Funziona bene, ma c'è poca potenza, ne M, 30 watt solo c'è. Aspetta un attimo, già che è arrivata mia figlia, un secondo. Che va? Quel coso lì è un casino, e dunque già avevo fatto fatica io a trovarlo. Adesso per metterci alla ricerca, bisogna vedere. Via, fai. No, sono qua, è tutto acceso, no, non si preoccupi, è tutto sotto controllo, capo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Allora tu lo fai apposta. Se provvigiamente non risponde nessuno. Fine, hai bisogno di Claudio, così provvigiamente. Se la gita a Claudio, buono, ma mi è sembrato sentire a Gianni prima. E mi ha detto c'era, ma è sparito di nuovo. Oh già, tu lo fai apposta, poi aspetti che ci sentiamo noi, entri in due. Ma cosa? Ho avuto problemi di batteria, mi si è scaricato, cioè la batteria scarica, non usciva il microfono, ecco cos'è. Adesso ho cambiato apparecchio, adesso sono con Ruiz. Non mi piace la timbrica. È un po' metallica, ma già va bene lui. Tieni conto, magari di 40 anni già va bene, un po' metallica, ma va bene, abbastanza chiaro. No, t'ho chiamato anche io. Poi non mi ha risposto, forse stavi cambiando la batteria già. Mi ha mandato un messaggio, adesso aspetto la risposta. No, non ne ho proprio batteria, la devo comprare. L'ho comprata per la trapparecchia, se mi sei scaricata qua, nel microfono dell'Intec, dai. Prima l'ho cambiata per il 2009, adesso devo cambiarla per l'Intec, dai, deve essere che oramai hanno fatto il lavoro. Io per quello le compro ricaricabili e da allora mi dimentico anche di cambiarle, capito? Le avevo prese su Amazon 2 ricaricabili. No, non mi piace, non mi ricaricabili, durano dall'altra da Santo Stefano, buh. Magari l'hai comprato tu già, se ando gioco senza giamballio, dall'MB4, dal tester, che praticamente lo uso tutti i giorni. No, ancora pensa che una è ancora in confezione. Ti mando la foto se ti interessa, queste vanno benissimo. E poi non c'ho il coso per caricare, lascia per. Andavè. Comunque io preferisco quelle Duracell, mi durano anche un anno e mezzo, due anni. Duracell, se Duracell durano di più. Sì, io metto sempre quelle. Adesso non ho trovato le Duracell, in uno ho messo la Panasonic, ma sono buone anche quelle. Sì, già vanno bene anche le Panasonic, già vanno bene, c'è il problema. Io stavo facendo un po' di ascolto su 525, va. Adesso spento. Sì, no, io c'ho il volume basso. Faccio ascoltare, sembra che stia traslando e non va bene. No, io se accendo uno non accendo l'altro, sono fatto così perché non mi piace che sentano le conversazioni che hanno altre frequenze, certo. Anche perché non si può fare qui, c'è un decreto legge nel comunicazioni, chi sta studiando dovrebbe anche sapere, non si può trattare, si può trattare la teoria, ma non si può trattare a prescindere, quindi bisogna stare attenti, no, io ce l'ho, posso mettermi le cuffie e ascoltare, ma non me ne fotte nulla, se devo parlare entro e parlo, ma sono qua, non le posso fare 100.000 cose. Sì, ma tanto vabbè, il discorso che stavamo facendo l'abbiamo fatto tante volte anche qua. XCB, quindi tutti e due sono un XCB, ma l'altro XCB non è niente. E uno me l'ho riconosciuto chi era, uno mi è nuovo, ho pensato a quello importatore, ma forse mi sbaglio. No, già nel Dorado uno. Ah, ho capito, non l'ho mai sentito già nel Dorado, so che fa radiomacchia e radiomatore, però non l'avevo mai sentito fra questo. Dica, abitava lì di fronte ai carabinieri. Non abitava lì punto. No, di fronte ai carabinieri, adesso è quello che abita in via Pascoli. Di fronte a dove abitavo io, con l'antenna che c'è via Pascoli, di fronte a dove abitavo io. Ah, ho capito. Vabbè. E comunque il discorso, vabbè, era quello, capito? Quello che facciamo sempre noi, il PL, eccetera, eccetera. Sì, stavo seguendo. Perché c'è un problema all'antenna, Gianni, infatti dove ci voleva una mano. Però detto già si arrangia da solo, non c'è problema. Va bene. Io mi ancora un po' 7:30, adesso mi preparo, devo andare a Sassari a ordinare pizza e a prendere altra roba. Dai, riprendi tu Luca, intanto mi preparo. Ciao pagato. Luca, ogni tanto si assenta, boh. No, già ci sono, stavo mettendo le cuffie. Che appaga appa. E sei tutta a fusci. Lo so, il ricevitore. Fa Napoli. Aspetta che abbasso. Ancora fischi? Non credo. Gianni! Eia! Aspetta, ancora fischi, senti, perché erano le cuffie, i ricevitori, che c'ho le cuffie. Fa un passaggio lungo! Guarda, beh, questo è il microfono a studio. Non stai fischiando adesso, dai. No, quando senti fischi è perché c'ho la radio, il ricevitore vicino con le cuffie, allora ho capito. Fruscia, anche perché qua è tutto, cazzo, tutto al minimo, così che... KK, allora, guarda, questo è quello da studio, adesso ti faccio sentire nel mini un aspetto. Con la cassa. Gianni. Sì, ya. Questo è l'MD1. Microfono, l'MD1. Quello da studio sarebbe? No, aspetta, mando la foto. No, quello da studio è quello dorato, l'MV8000. Questo, aspetta, ti mando la foto. Sì, bene comunque. Sì. Però è più basso come modulazione rispetto a quello da studio, capito? È sempre attaccato al mixer, eh? E se voglio aumentare aumento, non è che, capito? Che... Aspetta. Ecco, toh. La faccio spingere quanto voglio, capito? Faccio spingere quanto ne voglia io. Vabbè, già, quel sistema là che ti ho mandato ti è piaciuto? Per te che hai appunto che moduli dal letto? No, non l'ho guardato, aspetta. Non l'hai guardato più. Raga, io mi allontano, devo andare a Sassari, amici, devo andare a comprare roba. Se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ehi, acà, va bene. Beh, noi lui ci aggiorniamo per telefono, ok? Ciao dopo, ciao già. Ciao, Claccia, ciao. E beh, già, l'hai guardato? Quello sto usando adesso è quello che ti ho mandato in foto. Ciao. Ma stai uscendo bene lui, non toccare niente, va bene. Ehi, le sto facendo sentire l'MD1. L'MD1 ci funziona bene lo stesso. Poi viene corretto dal mix, quindi non c'è problema. Dai, ci aggiorniamo dopo. Ehi, ciao Cla, vuole compere. L'hai visto la foto già? No. Ma c'hai WhatsApp aperto però, perché mi dice che l'hai guardata. Chi ha pagato? L'asino della crucca. Oh, io mi sono attaccato, io mi sacca, non posso camminare, ne manco così stampella. Oh, io mi sospe, non posso camminare, non posso camminare, mi manca così stampella la zandera. Fai l'aggravamento già. Gianni. Ui. Dimmi. Fai l'aggravamento. Cosa non è facile l'aggravamento? Adesso me la tolgo alla pensione perché mi danno quelle validità e non me ne faccio più nulla. Quella di validità me la tolgono e mi danno quella dei vecchiai. Ah, ho capito. Se no già l'avevo fatto l'aggravamento, dal 64 fino all'80. E come me si è passato? fa tutti così, fatemi già. Intanto vi provano, maledetti. Se lo posso io, mi date il mio dentro battente. A uno che conoscevo me l'hanno abbassata, adesso è andato a fare la gravone e ti ho detto che prendeva troppo e me l'hanno abbassata. Allora mi conviene la sagomentera. Oltretutto, vabbè, gli hanno fatto fare anche l'esame, gli hanno fatto fare la patente per invalidi. Infatti, se superi un certo coso ti inibigliano la patente subito e ti fanno in invalidità per gli invalidi. Chissà speciale di raggi, appunto, chi sa male invalidi. Fanno fare versamenti, visite, poi bisogna andare presto perché se no avesse clienti, non vedi niente. Adesso mi devo prenotare l'altra risonanza. La seconda è la bruca a destra. Adesso lunedì mi sa che salgo a ritirare l'esito che è pronto dalla prima. Un'ora e mezzo di risonanza. Vai. Allora lascia perdere. Che a me mi hanno legato i piedi. Speriamo non te la facciamo così questa qua, perché se hai dolori non ti puoi muovere di un millimetro e soffri, ti viene, a me mi sta venendo la voglia di dirgli basta, spenga tutto. Perché? Perché nella posizione in cui ero, Luca, mi hanno legato i piedi, mi faceva un bel male la gamba, ma male, non ha dolori. Ah no, a me no, incredita. Nel lettino, mi hanno coperto con lenzuolo. Siccome dura un'ora e mezzo, allora la facciamo in tre volte, 45 minuti l'una, adesso la prima punta l'ho già fatta, perché adesso resistere un'ora e mezzo, via. A me mi hanno fatto mettere il camice bianco, mi hanno fatto mettere le ghette, mi hanno fatto mettere la cuffia in testa, poi mi hanno fatto coricare, mi hanno messo una piastra sopra il bacino, una piastra di piombo sicuramente, sopra il bacino, e sentivo questa cosa bizzante, non mi butti un pochino di millimetri. E quanto è durata? Più di mezz'ora è durata. Mamma mia, no, a me grazie a Dio non me ne bucio nulla. Non so, sì, il camice è quello che ti fanno mettere, sai, mutande, ti fanno mettere quel camice che ha aperto dietro, dai. E poi il lenzuolo mi hanno coperto. Ma 45 minuti barriere che non passavano mai. Sì, anche a me così, su 45 minuti. Su 45 minuti anche a me dura. E poi il brutto è quando si ferma sotto il tubo proprio, perché cammina questa cosa, già lo sai come, no? Quando si ferma sotto il tubo mi fa una brutta impressione, devo chiudere gli occhi. No. Io ho l'impressione del chiuso, Sattarino avanti. E a me me l'hanno fatta a te, mi hanno buttato un poco di roba, i piedi non me li hanno legati, però cazzo, tutto l'altro gli me l'hanno buttato, chissà roba bizanti, chissà disegni, mamma mia, la risonanza, cazzo, perché dura un bel, è quello, ti venne a gana andatini. Poi Natali, quando c'è il dolore non ti puoi muovere, è un casino, capito? E nel letto cosa fai? Cerchi la posizione migliore per non vedere il dolore, lì non lo puoi fare, lì devi stare fermo, secco e pesto, assorbendoti il dolore, caso che poi alla fine mi stava venendo l'ansia proprio. Sì, già lo so, cazzo, guai se uno soffre di claustrofobia non ne può fare di quell'esame. Lo so, mi hanno fatto compilare un foglio a me, se hanno fatto operazioni, tutta questa roba qua, un foglio un bel grande. Tutto quanto devo rispondere a tutto. Quello lo fanno fare a tutti, io già, però io siccome sono claustrofobico, l'ho fatto ai conti con il macchino riaperto, capito? È chiuso solo nei due lati, in alto è aperto però. E quello che soffre di claustrofobia, è un casotto, già lo so già. No, a me mi hanno sempre, quando lo facevo col macchinario chiuso, mi hanno sempre sedato, ho capito. Ma se ci dormi sveglia, sì, appunto un altro, si arriva, ma di una bici, quando la facevo col macchinario chiuso, grazie a Dio adesso c'è questo macchinario aperto. E per non farti la sedazione, famiglia lo so, anche a Babbo gliel'avevano fatta sedato, perché Babbo se non voleva tenere così non per riuscire a far via. Io una volta l'ho fatta da Urigo e me l'hanno fatta con la macchina chiusa, e la seconda era feo. A me lo stesso con la macchina chiusa me l'hanno fatto. Ma cosa vuoi che ti dica? Cura a noi. È brutto, è un macchinario chiuso che io non ci resisto, capito? Prima, qualche anno fa, riuscivo tranquillamente, mi potevi stare tutto il giorno, potevo stare chiuso dentro, non mi fa tenuta. A vari momenti ho provato più di una volta, come vedo il soffitto che virai attaccato a Mussolini. No, vai fuori, aiuto, mi pressa. Il bagaglio è uno che claustrofobico, è così. C'è gente che non può stare neanche dentro l'ascensore perché teme. Sì, è vero. Io, è quello che ti stavo dicendo, Luca. Quando io vedevo il tubo, chiudevo gli occhi perché mi dava fastidio, mi dava l'impressione di soffocamento. Mamma mia, le vuole, le mettiamo le cuffie con la musica, le mettiamo gli occhiali così non vede. No, perché la sensazione ce l'hai, cos'è occhiali a buio. Ti nanni. E allora mi facevano la sedazione, c'è un attimo di drome, buonanotte, mi butti di venire tutta lì dentro. Una volta sei sedato, sì, però loro, siccome è pericoloso fare la sedazione, non te ne vogliono fare, capito? Ma vai le cuffie a me in bus, ma invece che la musica sentivo e allora roba dei rumori, mamma mia. Ne abbara noia. Poi a un certo punto smetteva, io mi stavo augurando che finisse, invece ricominciava da capo. No, cazzo. E in quei momenti lì invece io mi muovo, magari mi fa male il braccio. Allora in quel momento lì, salvito, io mi muovo, mi rilascio un po'. Mi ha detto di non muovermi assolutamente, manco di un millimetro, niente, non si deve muovere, mi ha detto. Infatti, devi ci affermo, devi ci già. Se no mandi a fanculo l'esame. Ebbene, non falsifichi l'esame così, no? Infatti. Uno devi ci affermo, quando defende la risonanza e basta, non ve nulla di fatto. Oramai è fatta, ora devo andare all'equipe a farmi visitare, speriamo che questa sia una volta buona che mi dica cosa devo fare, perché io non li posso subire. Ti dicono, signor Mello, lei deve andare dall'asino della crucca, per dargli passa tutto. E io dico, sì, dove è andato Natalino, già ho capito. E pure tu lo sai. È per quello che adesso parla con la voce femminata. Ai. Luca. Andiamo. Vittola, Luca stava ridendo sotto i baffi mia, lo sai. Io lo vedo da qui. Ascoltate, vi voglio fare una domanda. Ci credete voi a quel concorso della birra Heineken che hanno mandato, che devi mandarla a 20 amici e ti mandano il frigorifero con la birra dentro? Ci credete voi a questa roba? Oh già, io lo stavo facendo. Siccome lo stavo mandando sempre agli stessi amici, alla terza volta che non potevo mandarne sempre agli stessi, allora ma a far Napoli. Io ho letto delle recensioni, adesso non so se sono vere o false, e c'è scritto, credevo che fosse una fregatura come tutte le altre cose, invece stamattina ho ricevuto il frigorifero con la birra dentro. Cioè, speriamo che sia una cosa vera, però io ho 20, non ce l'ho fatta, l'ho mandato tutti quelli che avevo, ma non erano 20. È la stessa cosa che è capitata a me, io ho provato, per due volte mi ha fatto mandare agli stessi, la terza volta mi ha detto no, non va bene. Cazzo, io mi sei passato il frigorifero e mi ero già dovuto comprare, però birra dentro non veniva. Ma stavo a fare il concorso dell'Aire, che? Cazzo, senza brigo a me... Il muccio, a giubilato me l'ho dovuto ricomprare nuovo, e basta. gioiaia, figurati, altro che concorso, Già me l'hanno mandato poco di concorsi qua, tutti gli estinati, anche tanto sono tutti i ruffi, non mi ha capito mai nulla. E anche la gente, Kurt, che sta sbagliando Kurt Natali, andando a bere la moglie, sicuramente era bisogno che era rifatta la moglie. No, non abbaglia così quando c'è mia moglie, no, già lo so io. Chi è? Il ladro, vai a musicalo, tu vai. Il ladro, Monello il ladro. Coloro tu. Adesso Natali te ne racconto una. L'altro giorno gli ho messo la lacetta da mangiare a Tyson, è andata una mosca e gli ho detto: Tyson, corri, vieni a mangiare, se no la mosca ti mangia tutto. È andato Gurrendi, prima è andata a ciappare la mosca, l'ha cacciata, poi è andata a mangiare, l'ha rivista e gli andava appresso, guarda, faceva troppo ridere. Io ti dico, diciamo, la carne dei vicini, no? una cagnetta che c'è con lui. Con quella bocca grande si mangia tutto, allora tu anda subito e si mangia tutto quanto. Lo sai che gli dati e ne rimagna, lo mangia. Ehi, anche cosa fa così, dico che la mosca di lo mangia e si va correndo. Sono intelligenti, adesso che... Guarda, mia, adesso c'è quella lì, l'amico, quella cagnetta di signora Lucia, e lui è andato vicino alla finestra. A chi gli dà poi giocare con Ed Mattesi? Io sono un po' più intelligenti. Ho messo su Facebook quando gli facevo fare le corse col salto, che lo stavo addestrando per saltare. Una volta siamo andati tutti quanti in greffa, le donne con me e con Marco, e loro sono entrati in questo negozio dei cinesi a Predaneda, e io per non entrare, siccome le donne ci mettono 3 ore, sono stato fuori con Tyson, no? C'erano le grate, le facevo saltare, che spiegate a mai dedi, poi questo col cavallo, adesso ci provo anch'io, non vi avvatta, si brillava, no? Non saltava. Il mio, quello che c'avevo, il pastore tedesco, lo facevo sedere, gli dicevo salta e saltava sul coso sul carrello del trattore, era un bel asso, era. Ma da seduto mi saltava, cazzo, lo dovevi vedere. Dopo tanti anni che Kurt. E allora, Isu si era un cane ben addestrato, gli diceva salta e lui saltava sopra il carrello del trattore, a vederla, si sale, sopra, innanzi alzava un po' più, ed era assù, un bel. Natali, qua giù c'è un pastore tedesco peloso, a pelo lungo, è una favola quel pastore tedesco, ha la groppa abbassata dietro, ben fatto, un bel colore lucido. Beh, questo cane lui lo tiene senza busolone e senza guinzaglio, non si azzarda, anche quando passa con un Tyson non si azzarda a toccarlo né avvicinarsi, abbaiarlo, niente. Il padrone dice sta fermo lì e lui mi dice, poi li cammina a fianco senza guinzaglio e senza nulla. È un cane veramente intelligente e l'ha fatto sedere, l'ha fatto fare plazzo, sis, tutto quanto faceva. Ma lo devi addestrare, anche il mio faceva così, ne guardava né guinzaglio né nulla. Io ero credo, si girava io, girava Edu. Quando gli mettevo la pallina, lui non si fermava lì, gli dicevo plazzo, lui si coricava lì e non si muoveva, perché sennò dopo io me ne andavo più lontano. Se lui si muoveva, doveva venire solo quando lo chiamavo io, e già lo so, quando è addestrato il cane lo fa. Il mio era spettacolare quel cane, non pareva vero di tutto chi fa via. Non erano belli quelli di Gianfranco, te li ricordi? Nelsi e Rambo. Sì che me li ricordo. E quelli l'hanno avvelenati, l'hanno portati a fare la guardia al negozio che avevano comprato a Stintino e li hanno avvelenati. Bastardoni. Quelli erano belli i cani lo stesso. Io mi aghiccio, l'ha giubilato, ma qui fa di mia moglie, se no io non ne volevo cani. Perché da quando era morto quello lì non ho voluto più cani. E l'ho preso perché mia moglie lo voleva, credevo che erano di quelli piccolini, piccolini, invece a me da come sei diventato. Ma non tagliamini, dai, il curso non è grande, dai. se no tagliaveri. Già lo so, ma io lo volevo piccolino piccolino per fare compagnia a mia moglie. E infatti è intestato a nome di mia moglie, non è intestato a me questo qui. No, quando mori chiccio più cani. Perché se ce l'hai lo devi trattare bene, come faccio io lo tratto come se un figliulo, a me come se sia un figliulo, io ci parlo e tutto, non lo... però è un impegno, io adesso non posso camminare, se no l'avrei portato io, perché come sforzo la gamba subito mi fa male, mi devo fermare, non c'è nulla da fare già. Ieri mi ho posteggiato la macchina lontano da qua, sono venuto che c'avevo la gamba crepata, non potevo stare, perché posteggio qua non ce n'era e l'ho dovuta posteggiare lontano. In più era tardi pure, perché siamo usciti tardi da quel caorso che sto facendo e mamma mia, curu curu vacu, non mi va di mare, non vedo da di va. Come cammini per un po' subito ti viene il dolore. Ma tu sotto casa ti devi far fare il parcheggio per gli invalidi, e parcheggi sì là sotto casa tua. E così mi do cavarmi la patente ma invalidi, e chi subito mi ne bigliani la patente, mi ne bigliani, succede un macello. Quello già è vero. Dopo devi andare alle 4 di mattina a fare la fila. Pure, sì sì, già rimane così la situazione, al limite mi pago 60 euro al mese, me la metto al mercato, ho deciso, perché mi sono rotto le scatole, che devo fare tanta strada ogni volta quando la posteggio lontano, molte volte la posteggio dove c'è quell'utico in via Sorso, lì, e me ne vengo da lì a piedi. Il via Sorso non ce n'è, però la parte del Campari, lì non ce n'è. Poi che molte volte è tutto pieno, non ce n'è manco lì, fini minira. I novi è chi dà più poco. Poi, molte volte addirittura all'utico mi devo fare tutto il ponte per venirne qua. Tu non lo sai quello che sto facendo io. C'era un amico che doveva venire a pigliarmi, invece non si è fatto in tindì e non è giunto. E sono dovuto andare con la macchina mia, me l'ho dovuta togliere dal parcheggio qui sotto e adesso è lontano. Natale, io ti capisco, perché sono nella stessa situazione. Cerco sempre che quando vado dal dottore ci deve essere qualche santo che mi protegge e trovo sempre il parcheggio di fronte, che è difficile me. Dove c'è la farmacia, dove c'è anche il CAF, capito, da Chiara? Ho capito. E lì è difficile me a trovare il parcheggio, io ogni volta lo trovo, prima la mettevo su, me la facevo a piedi, ma con un giorno di loro che arrivavo, a parte che ne passano 50 prima di me, e poi quando ce l'hai sotto, c'è poco da fare, l'altro giorno l'ho messa sotto, ho portato la risonanza magnetica all'opera a fargliela vedere, si è trascritto tutto. È un macello, un bici macchine, cazzo. Infatti sono così la ira, ma pigliamo un motorino proprio per non avere problemi di parcheggio, capito? Io coglione me l'ho venduto, cazzo, ce l'avevo bello, cazzo, quattro tempi era, 50 mi dice l'indato, ma camminava, allora non te l'avevo, curerò di manni, sono errori che si fanno, mi ha giudagliato la mano dritta. E non era quello che aveva Sergio, già me lo ricordo, lo scarabeo. E quello blu, cazzo, nuovo era. Miraggio venduto, cazzo. Guarda, ma tu andavi, premevi, prima e punia, subito in moto. Era un gioiello quella moto. Un gioiello era. E poi quelli hanno anche il posto, le pedale per metterci la roba. E allora c'avevo il portapacchi, c'avevo dove mettevo il casco, no? C'avevo il portapacchi e lì quando non c'era il casco mettevo la spesa. Mi mettevo la cassa d'acqua nella pedana, pure la spesa mi facevo con quella moto. Era la mano dritta già. Siccome ho avuto bisogno di soldi e me l'ho venduta. Male ho fatto, ma male in me. Ehi, vabbè, adesso quando ti entro te la riprendi. Avanti, Luca. Luca, e Luca ci ha abbandonato. E Natale così. Fare le cose tutte le pinti. Ma si trovano Natali anche poco presto, questi motorini qua si trovano. Se ne prendi uno seminuovo di modo che non ti dia problemi. E infatti anche 50, l'importante è che abbia la pedana, non mi interessa che sia alto di cilindrata, no? Basta che vada, che mi porti. Se non so più scendere a chi a piedi è una cosa, guarda. Impossibile. Bisogna uscire, bisogna. Anche io ne ho voglia di Natale di uscire, perché se no così il cane non sta portando l'aereo, quindi non sto uscendo nulla. Adesso sono riuscito a fare la spesa stamattina in macchina, ma cosa posso, dal garage dove metto la macchina, vado in ascensore, pido il carrello, mi appoggio al carrello per camminare e via, e faccio la spesa, poi ritorno a casa. Perché tu c'hai il posto dentro, tu lo trovi sempre il parcheggio, io la macchina la prendo esclusivamente, se devo fare qualcosa di importante io sento di andare lontano. Gira io, va, papà, che c'è un coso, mi pare che andi in tra e non ne piglio più macchina, perché no, guarda, ogni volta è un macello. Adesso io se devo prendere la macchina mi tocca andare a Casino di Montebello a pigliarmela a piedi. E va giù il borsello, la borsa, lo vacco, lui, mamma mia. Ora che di un carusso. Sì, fini menina qua. Adesso ho anche paura a farmi operare, ma che cazzo di rubo, vedi che vero, i lipidari. Sì, no, ma più batto fare esami, sempre che me ne potevo in vasta, Sassari, di chi sa esame. Perché devo fare un eco Doppler e poi trovare un chirurgo che mi visiti, perché è un'angioplastica che mi devono fare. Non ti credi che sia cosa, quella che mi hanno fatto al cuore me la fanno alla gamba, una volta che mi hanno disostruito l'arteria la gamba torna normale e poi cammina. C'ho la malattia della vetrina, perché quando ti viene quel dolore è come che stai guardando una vetrina, devi mappa e punta. La vetrina, beh, andare direttamente all'ospedale civile in cardiologia. No, in cardiologia no, perché nella gamba, è la gamba che c'è l'arteria ostruita nella gamba, ci vuole un chirurgo vascolare. Ecco, sì, adesso stavo pensando al cuore io. Sì, lì ci vuole un chirurgo vascolare, sì. Ma, vabbè. So che in chiesa che non ha fatto due operazioni, mamma mia. Tu ne hai fatto due, ne hai fatto due, tre, quattro. Come ricordi io sono quattro. Non è una cosa bella. Cinque. Ah, mi ho ordinato i PL, mi sono arrivati 12 PL in bacchelite, mi ho comprato. Mi deve arrivare il tasto telegrafico che me l'ho ordinato, anche quello. Un'antenna bibanda con la base magnetica, piccolina. E ne ho una lunga pure, però la base magnetica non mi piace, minorita. Adesso mi compro la base magnetica e me la faccio io. Perché c'è l'attacco a PL e me la faccio io per la bibanda. Se riesco a prendere quel pezzo di carta almeno me la uso. Vabbè, e PL le trovate, si avvitano? Sono nuovi, si avvitano già. Non è problema, li ho provati col rosmetro. Ti ho messo da parte quelle boccole, così almeno recuperi quei PL del cavolo che hai. E poi giorno ci vediamo, io ti do qualche PL di quelli che c'ho per vedere se va bene. Sono nuovi, ma anche i miei sono nuovi, mi Natali, non è che sono vecchi, no? Sono nuovi tutti. Con le boccole tu dammele e poi il giorno usciamo, così ci facciamo un giro e me ne dai. Ehi, anda bene mela. Uff, mamma mia. Infatti te le ho messe da parte, sì, mi sembra che sono. Però mi devi promettere una cosa, dobbiamo fare la gara con la stampella. La gara andrà più veloce. ma intanto io mi blocco da voi un poco, non posso. I miei sprint ti posso buttare, però da voi mi devo fare punta. E tu continui, mi butti. No, ma che io. Ti stai dicendo che avevo portato il cane, mi fermavo le mulette e mi sedevo vicino a casa perché non ce la facevo. Io già lo so che sono dolori a truce, ma a me è un dolore allucinante di bene, devi ma fai puzza. Perché non arriva sangue, te l'immagini. Quello che sta arrivando per altre vie, non per quell'arteria lì. Sai che siete cuocuomani? Cuocuomane sarai tu, hai capito bello bene? Allora, i cuocuomani sono così, capito bello bene? Lui è che finalmente un po' di fresco. Tu ci vieni qua, devo farci la bandierina quando facciamo la gara. A una due tre stella, o alle quattro cantonate. Dobbiamo fare la gara con la stampella. Certo, mi cuso 5, mamma mia. Tu darei dove era stamani a Monte. A coso, a Monterraso, ma tali che se ne avrei. E beh, risolto avete. Sì, non c'è niente. Il problema è che quando manca la luce si accende la parte dell'alimentazione, ma non si accende in automatico le radio, rimangono spente, capito? Si accendono solo manualmente, quindi adesso andrà il tecnico a verificare il perché. Ho capito. Sarei voluto venire lì, solo che se c'è da fare strada a piedi è un casotto. Ma lì lascia perdere. Sì, c'è un pezzo di salita a piedi, c'è un freddo qua, per carità. Ma noi eravamo col fuori strada, capito? Quello che era anche c'ho io, se no col cazzo sale lì. Ho capito. A Boccaio, no? E sopra in punta sono ripetitori della RAI, di tutto. E io ci andavo spesso da quelle parti, perché scendevo giù lì, perché scendevo a Bono, scendevo, capito? Ci ho lavorato lì io, mio padre, capito? Quindi ci andavo spesso da quelle parti. Mi sarebbe piaciuto venire a vederlo, le vedere. Intanto ci dobbiamo riandare, c'è a cambiare cavità, c'è a fare i lavori, già ti avviso. Se sei libero già ti porto, non so prendere ti porto. Avanti Gianni. Sì, vabbè dai. Magari lo risolve il tecnico, sarà qualche cosa da programmare, non lo so, alle radio. Anda bene. Via. Comunque sta facendo bene questa radio, vero? Sì, un pochino, come si dice, proprio vicino al microfono, si allontana. E lo sai cos'è? Il microfono che c'ha la capsula metallica, come tutti gli altri microfoni, tipo i TAR e la roba, è così questo microfono. Allora già va bene, non ti preoccupare. Sono una stanchezza addosso, grazie. Ho dovuto andare nel torrente, in piedi, ma lo trovo il ballo. Riprendi il tattolino. E a coso anche l'amico nostro c'era stamattina, quello magro. No, solo io e Walter e basta, erano tutti impegnati. Io ti ho detto a Walter se c'era anche lui. Ah, quello magro, certo. Infatti ho dovuto mettere la ridotta per salire, perché sai, 150 kg lui, 85 io. Che cavolo. Cosa sono tanti col fuori strada? Allora cosa vai lì, non ci vai con macchine piccole, sono andato con la mia, un po' che ci ho io, per forza. A un certo punto poi c'è la salita bella, ho dovuto mettere le quattro ruote motrici con la ridotta, cazzo, perché il peso suo, il peso mio, il peso della macchina, capito? Ma la tua che fine ha fatto la Faromeo? Ce l'hai l'aria. Pensavo l'avessi versato. No, mi sono uscito adesso, andare a prendere le pizze. Ha giocato un traffato, ragazzi, ci sono problemi la macchina ancora. Rispetto al fuori strada, che la sua macchina la feci frequentare, che se ne stai guidando, grazie a lui. Uia! Oh, io non lo so. Cazzo, mi sto addormentando, ci bicicletta, se ne mangio un tranccio di pizza e mi sdraio un divano, sono capezzi, vai da stata lì. Sì, me lo posso immaginare. Quando uno sta tutto il giorno andando e tornando e ti stanchi per forza. E te credo. Le cavità, una deve entrare e l'altra non deve entrare nulla, capito? Perché sono come condensatori, sono dei filtri le cavità. Si conferma, infatti, siamo dei condensatori di quelli elettrici giganti. Sì, sono stanco, sono qui con la scala, è brutta, è tutta gufi, fino a un certo punto va bene, poi da Santa Lucia fino a Sua Montevideo è tutto gufi, con una macchina del genere che è anche pesante, mi ha stancato, sono 70 a andare, 70 a tornare, poi siamo fermati, poi siamo scesi ai punti a scaricare tutto, mi sono trattenuto un attimo lì, vabbè, alle 2:30 sono entrato a casa. Sono le 8:10, fra un po' mi mangio un pezzo di pizza e poi se abbileco mi guardo la TV, se non vedremo prima, vai già. Poi è tutto cambiato la volta, io andavo ancora quando si entrava dall'altra parte, adesso è tutto cambiato, tutta una antenna che va. Una, ehi, ne sono quattro tralicci, e ancora ne dobbiamo piazzare un altro. Scappa. E vabbè, lui è super affezionato a questo tipo di...